Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:09, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. I protagonisti della puntata di oggi sono due magistrati. Due magistrati che da anni sono in prima fila e conoscono e combattono due forme di criminalità organizzata molto potenti, la camorra e l'andrangheta. Non c'è alcuno e non c'è nessuno da mitizzare o da eroizzare oggi. Ci sono due magistrati che sono qui e che ci racconteranno qualcosa. Uno dei due è stato 7 anni nell'antimafia Napoli a indagare, tra l'altro, sui Casalesi, su Gomorra. Oggi è magistrato in Cassazione, ha scritto un libro sulla sua vita nella DDA, un libro che si intitola Solo per giustizia, edito da Mondadori, è uscito proprio in questi giorni. Si tratta di Raffaele Cantone, che saluto. Buongiorno Cantone. Buongiorno a lei. Un uomo che insomma racconta, e lo racconterà nella trasmissione, per la sua attività di magistrato si è ritrovato un paio d'anni fa ad essere il magistrato più sorvegliato della provincia di Napoli, sostanzialmente, con 2 auto blindate e 5 uomini armati di scorta. Anche il secondo magistrato ha scritto dei libri, secondo me, illuminanti per conoscere il fenomeno della Andrangheta, quello di un paio d'anni fa è Fratelli di Sangue, il più recente si intitola Il grande inganno, i falsi valori dell'Andrangheta. Si tratta del PM Nicola Gratteri, buongiorno, della DDA di Reggio Calabria. Buongiorno Gratteri, buongiorno. Benvenuto. Sono due magistrati, dunque, che conoscono molto bene queste forme di criminalità invasive, pervasive, molto potenti, molto famose, molto anche note, insomma, dopo soprattutto i Casalesi, dopo il successo di Gomorra e di Saviano. Sono qui per raccontarci come si combatte questa criminalità, come si combattono queste mafie, per rispondere anche alle vostre domande. 9:12, 800 24 00 24 per intervenire, gli sms al 349 238 6666. Oggi parliamo con due magistrati, Raffaele Cantone per 7 anni alla DDA di Napoli a combattere la mafia, la camorra, nel napoletano e nel casertano, e Nicola Gratteri, uomo ancora oggi in prima fila nella lotta all'andrangheta. Questo racconto inizia, e lo voglio iniziare dalla scuola, dalle scuole, che sono in prima pagina per tanti altri motivi oggi, ma perché? Perché sia Cantone che Gratteri abitualmente, spesso, sono andati nelle scuole per incontrare i ragazzi e spiegare loro che cos'è la mafia. Dottor Cantone, io inizierei dall'episodio nel quale, che lei racconta molto bene nel libro, di quando un giorno si presentò in una scuola a Casal di Principe. Tra i ragazzi ai quali parlava c'era anche il figlio di un boss mafioso. Che successe? Allora, mi consenta prima di salutare Nicola Gratteri, che è un magistrato di grande valore e che sta facendo attività molto serie e importanti in quel di Reggio Calabria. Che cosa successe? Io fui invitato in una scuola sapendo che era la scuola normalmente frequentata dai familiari del boss. Fu uno di quei soliti dibattiti apparentemente banali, ma quando io mi resi conto che l'attenzione dei ragazzi era soprattutto catalizzata dalla presenza del figlio del boss, cambiai registro e feci un intervento volutamente provocatorio, spiegando ai ragazzi che non c'è nessuna fascinazione nella camorra e che soprattutto i giovani che si fanno attrarre dalla camorra sono destinati ad essere carne di macello e che anche all'interno di queste consorterie esistono delle gerarchie per cui la maggior parte delle persone sono destinati a fare gli operai della camorra, a finire in carcere, a finire diciamo nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, ammazzati, e invece i grandi capi a fare grandi affari anche alle loro spalle. Fu un momento molto delicato perché il figlio del boss si alzò e si allontanò. Quando il figlio del boss si alzò e si allontanò, all'interno dell'aula cambiò completamente la situazione e ci fu l'apertura di un dibattito che si concluse non appena il ragazzino, che aveva all'epoca 15-16 anni, rientrò nella sala. Devo dire che quel ragazzo mi faceva grande tenerezza perché stava facendo un ruolo che non era il suo, era comunque un ragazzino vestito come un figurino, però purtroppo aveva già tutta una serie di caratteristiche tipiche di chi sente inserita nel suo sangue certi valori. E purtroppo aveva invece ed esercitava quella fascinazione che lei dice non c'è assolutamente in questi personaggi, eppure nei suoi compagni, no, in qualche modo un'influenza la esercitava. Assolutamente, assolutamente. Io diciamo feci un intervento provocatorio per cercare di far capire come una fascinazione assolutamente superficiale, ma invece è il contrario, perché i ragazzi di quella scuola, e quello è stato sicuramente tra tutte le scuole l'esperienza più bella, confessarono come per loro era veramente difficile sottrarsi all'idea di vedere il ragazzino ben vestito, con la moto, eventualmente già con le ragazzine al fianco, che faceva più che il bulletto già il piccolo capo. Quindi altro che fascinazione, purtroppo in quelle zone diventano quasi dei miti, dei modelli, lo ha raccontato Saviano con la vicenda dello screensaver del figlio di Lauro. Certo. Sono vicende purtroppo negative e sulle quali è fondamentale intervenire in questa fase. Come detto anche Gratteri va nelle scuole, tra l'altro proprio coincidenza vuole, appena finisce questa trasmissione il procuratore Gratteri entrerà in un liceo di Rosarno, credo, per parlare ai ragazzi e spiegare Gratteri che cosa, per esempio che cos'è il grande inganno, che cos'è il grande inganno della 'Ndrangheta. Allora volevo salutare Cantone, che è una persona che stimo tantissimo, è un magistrato molto serio. Poi volevo dire che io quando vado spesso nelle scuole, ma quando vado nelle scuole quel giorno mi metto in ferie, perché altrimenti potremmo essere strumentalmente tacciati di fare i professionisti dell'antimafia anziché lavorare. Lei oggi è in ferie, insomma. Sì, oggi sono in ferie, mi metto volutamente in ferie quando vado nelle scuole a parlare ai ragazzi. Io quando ho scritto il primo libro, l'ho scritto perché avevo l'esigenza di scrivere la storia dell''Ndrangheta, perché sino a quel momento la storia cruda, asciutta, con documenti prelevati dagli archivi della prefettura sin dalla fine con documenti che ho trovato fin dalla fine dell'Ottocento, sinora non era stato fatto. E poi l'altra esigenza di scrivere il libro Il Grande Inganno era spiegare ai ragazzi perché non conviene essere 'ndranghetisti e spiegare i falsi valori dell''Ndrangheta. Perché la forza dell''Ndrangheta è soprattutto questa struttura familiare, cioè un locale di 'Ndrangheta, un'organizzazione, corrisponde all'intera famiglia patriarcale o a due famiglie patriarcali. Una famiglia patriarcale vuol dire 300, 500, 1000 persone, originati dal capostipite. Ora, quindi noi qui abbiamo difficoltà, non ci sono collaboratori di giustizia, la gente nega anche di esistere, eccetera. Il mio approccio quando vado nelle scuole è spiegare perché non conviene dal punto di vista economico essere 'ndranghetisti, essere battezzati in 'Ndrangheta come picciotti lisci. Cioè deve battere su quel tasto. Sì, perché oggi ai ragazzi è difficile parlare di morale, di etica, lo si può fare dopo, in seconda battuta. Cioè io vado mediamente una volta ogni 10 giorni nelle scuole a parlare ai ragazzi, ormai un po' di esperienza l'ho fatta. Se ci si approccia facendo una sorta di morale, di sermone, non vi ascoltano, non seguono. Se incominciamo a fare degli esempi pratici, a entrare nel loro mondo, cioè quello della società consumistica di oggi, dove i ragazzi vengono, contano se hanno le scarpe firmate, le magliette o il motorino all'ultima moda, come diceva giustamente adesso il collega Cantone. Ora, quindi noi spieghiamo invece che chi viene battezzato nell''Ndrangheta partendo dal grado più basso come picciotto liscio è garzone di 'Ndrangheta, chi nasce garzone di 'Ndrangheta morirà garzone di 'Ndrangheta, cioè sarà l'esecutore materiale, cioè chi più facilmente statisticamente va prima in carcere è l'esecutore materiale di ordini, quindi il trafficante, il corriere di droga, il killer, l'estortore, l'usuraio. E allora il figlio del capo mafia raramente o difficilmente andrà in carcere, perché lui anche all'interno della stessa 'Ndrangheta ci sono le raccomandazioni, ci sono le corsie preferenziali, cioè il figlio del capo mafia ha già un'autostrada davanti a salire la gerarchia della 'Ndrangheta, i gradi, gli danno due doti, due fiori per volta, perché in pochissimi anni arrivi ai vertici dell'organizzazione, mentre chi invece chi sta sotto entra sotto e rimane sotto per tutta la vita, che in genere è breve. Come picciottolisce, al massimo diventa sgarrista o camorrista. Guardi, c'è tra l'altro c'è tra l'altro un episodio che mi permette di ritornare a Cantone proprio su questo. Cantone, lei racconta nel suo libro quando incontrò Michele, insomma uno dei collaboratori di giustizia, e che gli raccontava insomma che guadagnava più o meno un 2 milioni di lire dell'epoca come stipendio da camorrista, e all'obiezione lei disse: ma perché non ha fatto un lavoro onesto per guadagnare la stessa cifra? E lui diceva: guardi, io l'ho fatto, ma quando andavo in giro poi con mio cognato vedevo che la gente mi rispettava, se entravo in un bar trovavo qualcuno pronto a offrirmi un caffè, se entravo in un negozio venivo servito e riverito, mi facevano spesso anche lo sconto senza neanche gliela avessi chiesto. Poi però aggiunge in questa confessione: ma ho capito troppo tardi che questo è il contentino dei fessi, sono stato uno stupido. Guardi, prima di tutto concordo pienamente con quello che diceva Nicola Gratteri. È vero un dato, soprattutto le guerre di camorra, di mafia, di 'ndrangheta si combattono a bassi livelli, cioè alla fine la maggior parte degli omicidi avvengono nei livelli bassi. I soldati semplici vengono mandati allo sbaraglio perché finché poi non si toccano le famiglie c'è sempre uno spazio per poter contrattare la pace, quindi sostanzialmente diventano merce di scambio fine a se stessa. La vicenda che racconto è una vicenda ovviamente vera, ma che è significativa perché è un problema culturale, cioè quando in un posto il camorrista viene rispettato più dell'operaio, quando in una realtà il ragazzino, diciamo, che fa il bulletto e che si atteggia da camorrista viene rispettato dagli altri ragazzini, diventa veramente difficile cambiare la mentalità, diciamo, di chi certe cose le vive tutti i giorni. Perciò io dico da sempre, su questo la gran parte dei magistrati, che la lotta alle mafie non si può fare solo dal punto di vista militare, perché se noi la facciamo solo dal punto di vista militare, dopo un po' si tratta come di idre, gli si taglia una testa e ne escono due. Michele Pessechino, quando mi raccontava queste cose, mi diceva: dottore, la cosa incredibile è che c'è gente pronta, bussa alle porte per entrare nei clan, non aspetta altro che noi gli apriamo le porte. È la verità, è veramente la cosa inquietante di tutto questo. Senta Cantone, lei è nato e cresciuto a Giugliano, così come Gratteri, insomma, è del posto, è nato in provincia di Reggio Calabria. Per lei, Cantone, è stato difficile da ragazzo scegliere da che parte stare, diciamolo brutalmente? Guardi, non è stato difficile per la semplice ragione che, appartenendo a famiglie strane a certi contesti, si tratta di scelte tutto sommato fisiologiche. Però devo dire che il rischio, diciamo, serio è che ci possano essere contaminazioni. Cioè, ho visto tanti ragazzi di buona famiglia o che rischiavano di farsi invischiare in queste situazioni. Però questo ci tengo a dirlo. La grande esperienza che è venuta anche da esempi eroici a cui paragonarsi è sempre, cioè, difficilissimo, e non c'è nessuna volontà da parte mia di farlo, Falcone, Borsellino, è la dimostrazione che la conoscenza dei territori è fondamentale per affrontare la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, e che bisogna farlo senza, mi si passi il termine, puzza sotto il naso, bisogna farlo avendo il coraggio di capire, senza necessariamente neanche criminalizzare tutto, senza giustificazionismi, ma capendo che certe realtà sono molto più complesse, che non possono essere risolte mandando 10 militari a fare un po' di scena per le strade. Sì. Senta, io vorrei tornare per un attimo da Gratteri. Gratteri, mi ha molto colpito un'intervista che lei fece un paio di anni fa, quando disse, già ce l'ha detto prima, ha detto: qua c'è un'omertà tale, credo che la sua frase sia stata un po' buttata lì, la gente nega addirittura di esistere quando andiamo per paradosso, no? Quando andiamo a indagare magari. Lei però disse: la gente non collabora con noi perché noi, lo Stato, spesso siamo poco credibili. Perché? Perché il Sud è stato molte volte tradito, è stato molte volte sfruttato, viene munto soprattutto nel periodo elettorale, e poi chi fa promesse sparisce, e spesso anche le cose più elementari non sono presenti al Sud, in particolare in Calabria. quando lo Stato, inteso come Ministero della Giustizia o Ministero dell'Interno, si muove solo quando dopo 3-4 giorni di prima pagina sui 3-4 giornali più importanti d'Italia, solo in quel caso ci si muove, altrimenti non ci si muove. Si dice che c'è il problema solo quando c'è il morto a terra, altrimenti il problema non c'è, ed è esattamente il contrario, che noi sappiamo che le mafie ingrassano, sono forti quando non ci sono morti, quando tutto fila liscio. Allora, perché la gente non crede più in noi? Perché noi non siamo credibili, perché noi non siamo coerenti e conseguenziali con quello che è il nostro ruolo, la nostra funzione, per cui siamo stati preposti e messi lì. Quindi la gente è disincantata. Lei si riferisce a quando eravamo nella piazza a Locri e non c'era nessuno attorno alla trasmissione Viva l'Italia, sì, di Rai 3. In quell'occasione la maggior parte delle persone in Calabria, anche nei paesi ad alta densità mafiosa, è contro la mafia, ma non ha la forza di reagire, ritiene di non avere scampo, perché se un usurato denuncia l'usuraio e la pena è talmente ridicola e con i riti alternativi, con rito abbreviato ad esempio, e al massimo questo l'usuraio starà in carcere un anno fino all'udienza preliminare, quando chiederà di essere giudicato con rito abbreviato. Quindi dove troviamo il commerciante che verrà a denunciare? Non c'è la certezza della pena, e quindi non c'è la certezza della pena, cioè non c'è un sistema giudiziario serio, forte, proporzionato a questa realtà criminale. Poi, dal punto di vista per quanto riguarda invece il resto, è ovvio che questi bambini, i figli dei mafiosi o i figli di garzoni di 'Ndrangheta, saranno costretti, diverranno loro stessi a loro volta garzoni di 'Ndrangheta. È molto lungo da spiegare, ma ci sono le regole della 'Ndrangheta dove quantomeno il primo genito di un 'ndranghetista per forza di cose entra nella 'Ndrangheta. Ma non c'è bisogno di questo, in ogni famiglia mafiosa ci sono 2-3 latitanti e ci sono stati già 2-3 morti. Allora cosa accade? Per andare a cercare i latitanti, ogni 3-4 giorni, settimana, carabiniero, polizia, finanza, rotazione vanno a sfondare la porta per cercare di catturare il padre, il figlio, il padre, lo zio, il cugino del bambino di 4 anni. Il bambino a 4-5 anni vede queste scene e già identifica il carabiniere come lo sbirro, il nemico da abbattere e da combattere. Allora servirebbe cosa? Servirebbe una scuola a tempo pieno, servirebbe un sistema scolastico tale da far stare i bambini meno possibile a casa, cioè i bambini dovrebbero stare fino a sera a scuola, ma non nelle scuole di oggi che sembrano delle caserme, ma è una scuola colorata dove c'è gioia. Stare dove c'è in scuola per gli insegnanti che vengono pagati proporzionalmente alla loro qualità per poter dare un'alternativa a quella invece che è l'educazione della mamma che gli insegna odio, vendetta contro le istituzioni o contro la famiglia contrapposta in quel momento. Tra l'altro le mamme, le donne hanno un ruolo molto molto attivo nella 'Ndrangheta. Le donne sono il motore, sono la molla nelle faide, sono quelli che incitano gli uomini alla commettere vendetta al sangue. Ma tra poco ci ritorneremo. Voglio ricordare, stiamo parlando con Raffaele Cantone, magistrato per sette anni nella DDA di Napoli contro la camorra, e Nicola Gratteri, uomo ancora in prima fila della DDA di Reggio Calabria contro la 'Ndrangheta. Io insomma non l'ho detto, ma è chiara la cosa, due magistrati che vivono due vite blindate insomma per il loro lavoro. Sono tanti gli ascoltatori, io ne do uno, poi do la pubblicità e c'è spazio anche ovviamente nella seconda parte. 800 24 00 24. Stefano da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto saluto e ringrazio il dottor Gratteri e il dottor Cantone per quanto fanno. Sapendo, avendo presente la complessità del fenomeno e la gravità della situazione, è già emerso che appunto la lotta alle mafie va condotta su diversi livelli. Qualcosa è già emerso, ma prendendo uno dei punti focali, forse uno dei più delicati, cioè quello delle nuove generazioni che vanno rieducate alla legalità e dalle quali va sradicata, sì, questa falsa mitologia mafiosa di cui si stava accennando precedentemente, a loro avviso, visto che loro hanno vissuto e continuano a vivere quotidianamente sulla loro pelle quelle realtà e quindi hanno coscienza profonda e conoscenza profonda di quanto avviene, lo Stato, che dovrebbe fornire un set, diciamo così, di valori diversi e che dovrebbe fungere da contraltare per strappare le nuove generazioni da quello che potrebbe essere un arruolamento appunto nelle camorra, nella sì. mafia, vi dicendo. Venga, allora vi cosa sta facendo? Cosa fa, qualcosa, cosa sta facendo di concreto? Cosa dovrebbe fare? Beh, insomma, qualcosa ci ha già detto Gratteri, insomma, in maniera un po' pessimistica. E Nicola Gratteri, che è nella direzione dell'Istituto Antimafia di Reggio Calabria, anche oggi in prima linea contro l'Ndrangheta, ha scritto anche lui un recente libro, Il grande inganno, i falsi valori dell'Ndrangheta, due magistrati che combattono quotidianamente la criminalità organizzata. Dottor Cantone, un paio di giorni fa è stato arrestato l'ex comandante della stazione di Pineta Mare fino al 25 settembre scorso, l'accusa di avere favorito la latitanza di Giuseppe Setola per 500.000 euro al mese, qualche telefonino, computer, insomma. E purtroppo non è il primo, lei nel libro racconta episodi, premessa, piccole, poche, pochissime mele marce, ma ci sono purtroppo settori dello Stato, e le chiedo che effetto le fa quando un uomo in divisa, anche se sono pochissimi, è lui a tradire. Sulla vicenda specifica ovviamente non ho... Ma no, certo. Per cui... Poi è stato arrestato, si vedrà, ci sarà un processo, eccetera. Attenderemo le valutazioni che arriveranno successivamente dai processi. Purtroppo ne ho visti abbastanza. E la cosa incredibile è che queste vicende, che io ritengo siano veri e propri atti di intelligenza col nemico, cioè non possono essere considerate corruzioni fine a se stesse, distruggono l'immagine della maggior parte delle forze dell'ordine, veramente la maggior parte, che lavora con abnegazione e lo fa semplicemente per senso del dovere. Perché le forze dell'ordine non hanno quasi mai alcuna gratificazione, anzi mai una gratificazione economica, molto raramente gratificazioni di carriera. Poi quelli che lavorano sul campo, i marescialli, della finanza, dei carabinieri, gli ispettori di polizia o anche diciamo i gradi più inferiori, i gradi più bassi, non hanno alcuna prospettiva di carriera, lo fanno semplicemente per dovere. E queste intelligenze col nemico distruggono soprattutto loro. Distruggono loro perché creano un'immagine negativa generale e soprattutto perché espongono le persone per bene, rendono le persone per bene, i tanti ufficiali di PG che lavorano sul territorio li fanno considerare dei nemici, li espongono alle ritorsioni e alle vendette. Quindi episodi come questi sono gravissimi. Per fortuna all'interno delle forze dell'ordine c'è la volontà di fare piazza pulita, di non limitarsi a nascondere la spazzatura sotto i tappeti. Quindi tutto sommato, se si guarda con attenzione e senza diciamo valutazioni approssimative, è evidente che c'è la volontà da parte delle stesse forze dell'ordine di fare pulizia. Lei però nel libro racconta che le connivenze sono a tutti i livelli, come quel giorno in cui Don Antonio, il suo parroco che lei conosceva molto bene, venne a trovarla a casa, tra l'altro il compleanno dei suoi figli, per mettere no, una buona parola. Non era il suo parroco. Non era il mio parroco, no, era diciamo una persona che venne indicata dal mio parroco. Ah, il mio parroco è una, diciamo, uno di quei parroci che va da esempio. No, persona, vabbè. Era un sacerdote, diciamo, era un parroco di un'altra città. Che venne a mettere la buona buona parola, insomma, per un indagato che lei stava indagando, che era un era buon arrestato, per la verità. Era arrestato. E perché questo meccanismo è strano, cioè la camorra è capace di insinuarsi dovunque, la Chiesa, noi abbiamo la Chiesa che urla forte contro la mafia, il Papa che da Agrigento dice cose pesanti, abbiamo tantissimi preti di frontiera che tutti i giorni si sostituiscono allo Stato. Ha ragione Nicola Gratteri a dire che la scuola è fondamentale, ma oggi che la scuola non riesce a fare queste cose, ci sono le associazioni, ci sono i preti di frontiera, eppure anche lì c'è un Don Antonio che si presenta a casa sua, purtroppo questo è incredibile. Da un ascoltatore poi torno da Nicola Gratteri. Paolo da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Senta, io sono un calabrese che vive a Milano ormai da tanti anni. Sì. Però per questioni lavorative ho avuto l'opportunità di partecipare tempo fa, non direttamente ma con una presenza per servizi di vigilanza, al processo Piero Malli che il dottor Pennisi in qualità di pubblico ministero ha portato avanti per anni. Venga. Sì, vorrei segnalare al dottor Gratteri che in realtà la presenza dei pentiti ha consentito più volte di raggiungere degli obiettivi, come in questo caso. La situazione sociale in Calabria è una situazione molto complessa. L'utilizzo della scuola sicuramente è uno strumento valido per risolvere particolari per migliorare questa situazione, ma si dovrebbe concentrare l'attenzione sulla presenza dello Stato. Le faccio solo un esempio: come si può pretendere che un maresciallo dei carabinieri, un comandante di una compagnia che opera in un comune ad alta densità mafiosa e che vive in quel comune con la famiglia, con i figli, possa erigersi a difensore della patria e cosa dovrebbe fare? La soluzione ce l'avrei, guardi, le dico solo questo, sì. E la lascio fare. La soluzione sarebbe semplicemente di consentire alle compagnie delle province limitrofe di andare a fare il controllo del territorio non nella provincia in cui si è stato chiarissimo, si riduce la contiguità, insomma, il ritrovarsi poi sulle stesse strade. Gratteri, che risponde a Paolo da Milano, che ne pensa? Sono piccole cose queste. Se si vuole arginare il fenomeno mafioso bisogna avere il stomaco, milza e pancreas, e cambiare il codice penale, di procedura penale e l'ordinamento penitenziario nel rispetto della Costituzione italiana. Io sono contro ogni forma di violenza, sono contrario anche ad uno schiaffo dato in carcere o in caserma, però questo sistema giudiziario è ridicolo rispetto a quella che è la realtà criminale. Bisogna avere il coraggio. Uno dei reati più difficili in assoluto da dimostrare sono il riciclaggio e l'associazione di inquisto stampo mafioso. Lei sa che la pena è ridicola, notoriamente un condannato per 416 bis sta in carcere a netto 5 anni di carcere. Cosa sono 5 anni di carcere davanti alla prospettiva per un capo mafia di comandare, di decidere chi fa il sindaco, chi fa il tecnico comunale, il segretario comunale, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo creare un sistema di certezze. Quando si dimostra che Gratteri, il capo mafia di quel paese, bisogna condannarlo a 30 anni, si riaprono le isole Pianosa, la Gorgona, Favignana, perché non lo so, anche quelle che non hanno votato l'indulto, perché non hanno detto che sono state chiuse delle carceri che potevano contenere almeno 4.000 detenuti, 3.500 e lì si manda lì. E dopodiché sempre nel rispetto dei diritti umani, sì, certo, sempre nel certo. rispetto della Costituzione, perché altrimenti così quando i giovani che hanno 12 anni, 13 anni, che vengono arruolati e battezzati nell'andrangheta, quando non vedono tornare dopo pochi anni i loro parenti, forse dicono, ci pensano due volte. Forse è bene che andiamo a trovarci un posto vero. Senta, procuratore, le chiedo le collusioni politiche. Ogni tanto si legge arrestato il sindaco del tal paese, della tal cittadina. Sembra così una notizia, vabbè, arrestato il sindaco. Lei quante ne vede di collusioni coi politici? Guarda, le collusioni sono, cioè lei deve pensare questo, che i capi mafia degli anni 70, cioè quelli che nei documentari si vedono ancora con la coppola, il bastone che portano le gregge al pascolo, non esistono più. Ora ci sono i loro figli che sono medici, ingegneri, avvocati, che sono battezzati nell'andrangheta e nel tempo stesso nella massoneria deviata, e quindi sono nei quadri della pubblica amministrazione. Cioè lei va in un ente pubblico, va in un ospedale e si trova davanti un medico che al tempo stesso è battezzato nell'andrangheta, che è parente di un andranghetista. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà. Per questo parlo, bisogna essere veramente seri e conseguenziali, credibili. È inutile scimmiottare col rito abbreviato. Cioè, il rito abbreviato è stato fatto per deflazionare i processi, ma è una delle cose più sciocche che siano state potute creare nel codice procedurale penale. Lei insiste su questo, insomma, sull'importanza di un sistema giudiziario efficace. Mi lasci dare un ascoltatore e poi vado al traffico. Vincenzo da Lodi, buongiorno. Ah, buongiorno, niente, sarò forse un po' ingenuo, però mi chiedevo, dato che fra i miei pochi amici ho un casalese onesto, cosa bisogna fare? Magari la stampa, certo tipo di stampa, e forse addirittura anche su alcuni verbali che poi si leggono in tribunale, bisogna far sparire la dicitura clan dei casalesi. Possibile che non esista un sinonimo di questo termine per poter forse aiutare anche le persone di quei di quel paese a non essere associate sempre a questa cosa. Guardi, la domanda interessante, voglio ricordare che Casalesi come è l'unica mafia insieme ai Corleonesi che prendono il nome dal paese, insomma Casale di Principe e Corleone. Do il traffico e poi riparto da questo, da Raffaele Cantone. Ci sono tantissime persone oneste, la stragrande maggioranza a Casale di Principe. Magari ci spiegherà Cantone chi è Federico Del Prete, che, di cui parla nel suo libro. Raffaele Cantone, lei racconta in un capitolo del suo libro la vicenda di Federico Del Prete, sindacalista di Casale di Principe. Io devo dire chi è, o meglio dire chi era Federico Del Prete, Cantone. Guardi, prima di tutto mi faccio dire che pure io credo che sia un grave oltraggio per i casalesi cittadini essere accomunati ai camorristi, perché è un doppio oltraggio, non soltanto essere soggiogati da una mafia così crudele, ma anche essere in qualche modo messi insieme a questa gentaglia. Chi era Federico Del Prete? Federico Del Prete era una persona comune, diciamo, io dico non aveva il physique du rôle per fare l'eroe. Era un uomo abituato a vivere nei mercati rionali, che a un certo punto si mise in testa un'idea strana, quella di voler ripristinare le regole nei mercati che si fanno la settimana in provincia di Napoli e Caserta. Cominciò a denunciare le estorsioni, cominciò a denunciare le vessazioni, e aveva un grave limite, il fatto di avere la sede del suo sindacato in una delle strade centrali di Casal di Principe. Questo non piacque ai casalesi, che lo fecero sparare, ammazzare un pomeriggio mentre lui lavorava nel suo sindacato. Il giorno prima del processo, che doveva partire dalle sue denunce, insomma. Sì, uno dei processi. Federico Del Prete non ha fatto solo quello. Ma la cosa incredibile, brutta, diciamo, che veramente mi ha fatto rimanere male, in cui in qualche modo pure io sono caduto in questo equivoco, e che all'inizio Federico Del Prete, il suo ruolo venne assolutamente sottovalutato, perché Federico Del Prete non apparteneva all'antimafia ufficiale, non partecipava alle manifestazioni, non era un uomo che si metteva in prima fila. Lui credeva semplicemente che con l'impegno si potesse ottenere qualcosa per migliorare. Lui non voleva fare la lotta alla mafia, lui voleva semplicemente migliorare la situazione dei suoi iscritti al suo sindacato. Voleva che nei mercati si lavorasse tutti onestamente, insomma una roba banale, voglio dire, apparentemente banale. E per questo ci ha lasciato la vita, ma veramente penso l'immagine più brutta sia quella del suo funerale, un funerale che ovviamente ho visto dopo. Autorità dove presenti? Non c'era nulla, nessuno, dove non c'erano neanche le persone, dove c'era i parenti. Solo i parenti più stretti abbandonati diciamo da soli, sì, senza autorità, per carità, sì. Figurarsi il sindaco, un assessore, diciamo anche l'antimafia ufficiale, nessuno. L'antimafia in qualche modo presente sempre alle parate, quell'antimafia che assolutamente è un fatto positivo, si guardò bene dal partecipare, perché in terre di mafia quando si muore la prima cosa che si pensa è che c'è una ragione, che si è colpevoli. Gratteri, io so che c'è un'inchiesta in corso, non lo so quello che ci può dire o se ce ne può parlare, ma insomma andò su tutti i giornali giusto per parlare di come si vive sempre in trincea, in prima linea, non si capisce bene di chi fidarsi o di chi no, ma andò su tutti i giornali la vicenda che in un ufficio che lei utilizzava in procura fu trovata addirittura una microspia, un qualcosa del genere, un congegno per sentire quello che diceva, insomma come, che fine ha fatto quella vicenda? La competenza della Procura di Catanzaro, perché per i magistrati della provincia di Reggio Calabria, Corte di Reggio Calabria, competenza di Catanzaro per reati sia quando il magistrato è indagato sia quando è parte offesa. C'è un'inchiesta in corso. Caso, in questo caso, niente, in una stanzetta di fronte al mio ufficio, io ogni tanto andavo lì a parlare con la polizia giudiziaria di cose molto riservate, di cose riservate perché stiamo molto attenti anche noi, e niente, poi in una bonifica, nel corso di una bonifica è stata trovata questa microspia autoalimentata e in sostanza cercavano di trovare qualcosa su di me per cercare magari eventualmente di legittimarmi, chissà cosa pensavano di trovare, ma avranno sentito parlare solo di indagine, di come delle ultime novità 20 altre intercettazioni. La delegittimazione, anche Raffaele Cantone ne parla molto nel suo libro Solo per giustizia. Dottor Cantone, se brevemente ci può spiegare quell'episodio di quando riuscirono a convincerla, lei restio, a portare lei, andare lei e portare suo figlio a vedere la partita di calcio del Napoli, che peraltro allora era in Serie B, non era mica primo in classifica come adesso. Per fortuna. Cioè, per fortuna adesso, primo in classifica. Per fortuna adesso, altro che. La convinse, credo, un uomo dei carabinieri a dire: venga a vedere la partita lei con il suo figlio. Io non ho mai capito se quest'uomo dei carabinieri fosse in qualche modo in malafede. Comunque, certo, lei si presentò il giorno all'appuntamento e lui era accompagnato da una persona di una certa età, e la cosa mi stupì perché io non sapevo chi era. Lui mi tranquillizzò, mi disse: dottore, non si preoccupi, è un mio amico, è una persona per bene. Io, forse anche per il lavoro che faccio, stavo per dire: vabbè, non fa niente, preferisco lasciare, ma mio figlio non l'avrei facilmente convinto ad abbandonare l'idea di andare a vedere la prima sua partita di calcio. E diciamo, entrai. E devo dire che appena entrai in macchina ebbi l'impressione veramente si trattava di una brava persona. Aveva una piccola attività economica, mi sembrava una persona normale. Il giorno dopo, quando rientrai in ufficio, venni raggiunto da un ufficiale della Guardia di Finanza, il quale, molto imbarazzato, mi chiese notizie sulla giornata mia precedente. Ed io veramente devo dire, ancora adesso quando ripercorro questo episodio ho i brividi. Gli chiesi: scusi, ma perché? E lui mi fece vedere le intercettazioni in cui, prima e dopo che io salivo in macchina, questa brava persona parlava con un indagato di un processo importante che poi ha portato a un grosso sequestro antimafia, del fatto che io ero nella sua macchina. Si vantava del fatto che ero nella sua macchina e del fatto che io ero suo amico e che quindi ero avvicinabile. Io non ho mai capito se il maresciallo fosse in malafede. Però di fatto lei era diventato già un magistrato avvicinabile. È bastato andare a vedere una partita di calcio con una persona che si è ritrovato così. Guardi, io ho imparato sulla mia pelle che significa dover vivere e lavorare in questi contesti. Io non ho assolutamente una vita sociale. Ci ho rinunciato anche con piacere perché è giusto che sia così. Però ti devi guardare continuamente le spalle da tutti. Ma è incredibile, da tutto, perché tranne le persone della tua famiglia, gli amici di sempre, tu puoi trovare insidia in qualunque momento, in qualunque posto, fra le persone più incredibili. Questo era l'amico di un maresciallo dei carabinieri, il mio capo scorta, una persona fra l'altro incensurata, perché poi scoprimmo che era una persona incensurata, forse uno che gli piaceva più fare buffonate che non... Pagina 109 del suo libro: meglio una calunnia che un proiettile in testa, le dicevano spesso come frase, ma lei dice: bah, chissà se poi è davvero così. Io credo che un magistrato delegittimato è uno dei regali più grossi che si può fare alla criminalità organizzata, perché chi lavora in questo settore deve avere autorevolezza nei confronti delle forze dell'ordine, deve avere autorevolezza nei confronti dei giudici, deve avere autorevolezza nei confronti degli stessi delinquenti, perché i delinquenti te la riconoscono l'autorevolezza, ti riconoscono anche la capacità di rispettare le regole. Se un pentito decide in qualche modo di affidare a te la tua vita, perché un soggetto che sceglie di pentirsi mette in discussione tutta la sua vita, sa che tu devi essere autorevole, certo, devi garantire una serie di cose. Se tu perdi l'autorevolezza, hai finito di lavorare in questo settore. Io mi devo fermare qui. Ringrazio Raffaele Cantone, autore del libro Solo per giustizia, vita di un magistrato contro la camorra. Lo potete comprare, edito da Mondadori. Così come ringrazio Nicola Gratteri della DD Antimafia di Reggio Calabria. Anche lui ha scritto un libro recente, qualche mese fa, Il grande inganno. Editore Pellegrini, Il grande inganno sulla 'Ndrangheta, i falsi valori della 'Ndrangheta. Ci fermiamo qui, grazie davvero per la vostra testimonianza di oggi. In redazione Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi, Giorgio Mattei in regia, e con Viva Voce ci ritroviamo lunedì mattina.